Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, Voice Anatomy comincia questa domenica sempre in diretta, sono le 14:01 qui a Radio 24. Vi ricordo il nostro numero di telefono per gli sms, che conoscete perfettamente, ma ve lo ripeto, 349-238-6666, se volete partecipare in diretta, 800-24-00-24, grazie per tutto l'affetto che ci dimostrate ogni settimana. Allora, io la scorsa settimana, scusate la reiterazione del concetto, ho cominciato con un'invettiva personale against o versus, come si dice in America, il critico Aldo Grasso. Ovviamente si è trattata di un'invettiva molto importante, molto forte, nei confronti di una critica che avrebbe ricevuto questa trasmissione, che si è rivelata un fake, un falso da parte della comunicazione che mi sono state consegnate, eccetera, per cui è partito tutto da lì. Il problema non è quello, non voglio utilizzare la radio ancora come forma privata, lo faccio per chiudere questa disavventura, anche se mi piacerebbe un giorno confrontarmi con lui, ovviamente, ma tutto quanto parte qualche tempo fa, insomma, in questi anni di critiche annose nei miei confronti, ma non di critiche al programma, ma alla persona. E quella cosa, ovviamente, toccando una trasmissione di successo come questa, alla quale tengo particolarmente perché è il mio core business, per utilizzare un termine di comunicazione, e che riguarda la mia vita, la vita dei miei colleghi, e che tanto successo sta avendo attraverso le onde di Radio 24, ovviamente lì è partito l'impazzimento, la scheggia impazzita cerebrale, perché leggo alcuni stralci antichi su critiche nei miei confronti. Il mio telecomando, dice Aldo Grasso contro gli antipatici, Pino Insegno, è da silenziare, non è mai riuscito a far ridere nessuno, il suo modo romanesco, volgare di fare TV. Addirittura una volta al direttore Mauro Mazza gli piacciono i romani, i conduttori romani di Roma, un panino sul Rai 1 con sopra Pino Insegno e sotto Max Giusti, uno guarda i due e pensa di ingollare Rigatoni e Pagliata, coda alla vaccinara, una droga oscura Pino Insegno che suscita le ombre degli inferi. Tutte queste cose che ormai non si contano più, i programmi affidati a Pino, ma perché quelli di destra non sanno fare TV? Ecco, questi anche sono giudizi personali che ovviamente lasciano il tempo che trovano. Non è una critica che ti fa crescere, ammesso e concesso o non concesso l'ideale politico o sportivo o editoriale di una persona. Addirittura attribuiscono al sindaco Alemanno la mia ascesa televisiva. Insomma, io ho cominciato con Gino Bramieri 37 anni fa e con Garinei in prima serata con l'Allegra Brigata, e non c'era lui, ci sono stati Petrucci, Rutelli, Veltroni, insomma, come tanti direttori si sono alternati nelle mie presenze televisive con la premiata ditta. Ci vuole coraggio nell'affidare ai bambini, questo dello Zecchino d'Oro, la conduzione di un uomo di destra romano e romanaccio che parla soltanto nella sua lingua madre, vabbè. E poi parla anche ovviamente della premiata ditta, che vorrebbe incontrare qualcuno che abbia fatto ridere la premiata ditta. Ora, ce ne stanno tantissimi, insomma, non ce n'è uno. Poi ci sarà anche qualcuno al quale la premiata ditta non è piaciuta, ma insomma un piccolo segno di storia televisiva l'ha lasciata. Insomma, però a questo punto da comico devo ammettere di aver commesso un errore di tempi, che per un attore comico sono fondamentali, cioè un tempo sbagliato della battuta nel dire cose che penso giuste al momento sbagliato. E allora per questo vorrei chiudere questa diatriba, e mi piacerebbe invece aprirla magari in maniera molto più cordiale, e che una convocazione di presenza con la quale potrebbe fare letteratura, anche perché di romano e romanaccio, insomma, non c'è stato mai niente nella mia vita. Ho sempre condotto in maniera giusta, e quei programmi, quei due o tre programmi che ho fatto in quel periodo storico, sociale e politico, sono stati programmi di gran successo, che hanno portato anche un'attenzione mediatica nei confronti di Rai 1 importante, almeno quei due o tre programmi. Per cui ovviamente ritiro l'invettiva perché di critica in questa trasmissione o su questa trasmissione non c'è stata, per cui devo dire che ho sbagliato i tempi, mi sono fidato e ovviamente, essendo già ferito da qualcosa di antico, sono leggermente impazzito, ma senza poi mancare di rispetto alla persona, ovviamente, ma una critica gratuita che c'è stata nei miei confronti. Per cui, se quello che pensavo, continuo a pensarlo, ovviamente, però ho utilizzato un momento sbagliato utilizzando una radio che non era figlia o nipote di tutto questo, per cui speriamo di ricominciare da qui in maniera serena e tranquilla, perché al mio fianco ho un grandissimo personaggio, un attore, un doppiatore, un direttore di doppiaggio, un adattatore e quant'altro. Sono un paio di stagioni che lo sto inseguendo, non è che se le assolutamente è perché gli impegni sono stati tanti e importanti, però vicino a me c'è Carlo Valli. Carlo, grazie. Ciao e grazie a te Pino e grazie a tutti gli ascoltatori. Perdonami questa piccola divagazione sul tema, ovviamente non succederà mai più, ma insomma Carlo, volevo che mi doppiassi tu, in questo caso non avevo io la voglia sì, di utilizzare. Carlo Valli è veramente, ha attraversato tutto, tutto nel doppiaggio, nel teatro, perché tu poi cominci col teatro. Tu sei, sì, si può dire, tu sei un uomo, si può dire quando sei nato, quando sì, vengono i nostri colleghi. Sono nato il 4 ottobre 1943, quindi ho 74 anni. Tu c'hai 74 anni. Sì. Non è vero, è uguale a quando ti ho conosciuto, ma guarda, anche dall'altra parte che saluto gli autori, il capoprogetto Alessia Navarro e Mauro Meconi, dall'altra parte hanno fatto tutti la faccia, ma dai, è vero. Purtroppo è così. Lo so, però insomma, stava finendo la guerra. Sì, cioè, sì, non era ancora finita. No, c'era no, ancora, 45, anzi, c'erano gli anni più brutti. Forse, esatto, ultimi, tu hai vissuto. Poi infatti mio padre è morto proprio lì, cioè, no, io non l'ho conosciuto perché ero piccolo quando è morto, ucciso dai tedeschi. Scusa la pausa che radiofonicamente ovviamente non è concepibile, però insomma sono cose alle quali non sembra che si può passare sopra così, un padre che non c'è, un padre che se n'è andato in un periodo storico così importante e difficile, sì, insomma non è facile. Tu sei anche figlio, però sì, figlio, sei padre di due splendidi doppiatori, sì, sì. Sono due figli, Ruggero e Arturo. Ruggero ha cominciato il primo anno di università e, sì, e l'altro fa quarta liceo scientifico. E, sì, hanno cominciato anche loro a fare doppiaggio da piccoli. Sì. Hanno fatto piccole cose, poi hanno fatto anche cose grandi. Sì, no, sì, no, carine. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di lavorarci insieme, che non sbagliano mai. Quando tu No, io ho fatto cadere dal panchetto quando era piccolo tuo figlio, stavamo doppiando un film di Viggo Mortensen, faceva mio figlio, io sbagliavo, lui no, a un certo punto ho dato una botta al panchetto, mi fa, almeno sbagli santa miseria, perché se no non possiamo andare avanti. Ah, era se, la strada. Sì, una cosa, sì, The Road. Cioè, sì, un film terrificante dove tuo figlio faceva bello, parte, bello, intenso. Ed era straordinario, per cui tu nasci però come attore di teatro. Sì, io ho fatto, finito il liceo, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica qui a Roma e appena sono uscito ho lavorato subito al teatro. Per cui tu non hai fatto né Grande Fratello VIP né tantomeno il tronista non l'hai fatto, no, per arrivare a tutto questo, no, scherzo ovviamente. Televisione l'ho fatta qualcosa, tanto. Allora se ne facevano, si facevano dei sceneggiati. dei belli sceneggiati che ora non si fanno più. No. Quelli li ho fatti, dei gialli, parecchia roba, sì. Poi basta, piano. Ma ne parliamo, io voglio però sentire la tua voce. Ovviamente l'avrete riconosciuta, la voce ufficiale di grande Robbie Williams. Tu hai doppiato quanti di Robbie Williams? Una quarantina di Robbie Williams, ma hai fatto film importanti, storici, che hanno lasciato il segno. Sì, il primo è il più bello, no, è uno dei due più belli. Il primo è Good Morning Vietnam e quell'altro è L'attimo fuggente, che sono i due più belli, secondo me. Oh, anche Mrs. Doubtfire non era male. Non me ne ha fatti una tanti. Bella commedia. Ma anche però. Patch Adams, sì. È piaciuto a molti, sì. È vero. Ma è bello, bello da morire. Ha lanciato anche una bellissima moda, fra virgolette, di essere vicini negli ospedali pediatrici, sì, da parte di persone che fanno compagnia alle persone meno fortunate. Però il Good Morning Vietnam è vero. Io me lo ricordo ancora perché io persi invece... Non voglio parlare di me perché ovviamente bisogna fare sempre un passo indietro, ma perché fatalità io devo fare, ho fatto il purino sul il Neretto che ti accompagnava, il tuo assistente, poi è diventato un attore straordinario che ha vinto anche l'Oscar, si chiamava Whitaker, Forrest Whitaker, come era all'epoca. Come no. di Good Morning Vietnam. Sì, di Good Morning Vietnam. E stavano facendo proprio i provini su Robbie Williams, su questa grande vocalità di questo attore comico, versatile, che veniva da successi televisivi importanti. Vulcanico. Eclettico, sì. Era una roba incredibile. Pazzesca. In Good Morning Vietnam c'erano delle tirate di pagine intere, l'assistente non sapeva dove tagliare. No, dove poi... tagliare l'anello. No, era impossibile, perché prima c'erano gli anelli. Ancora. Sì, allora c'erano ancora gli anelli. Ancora sì. C'era la pellicola, e poi c'era questo Forest Whitaker, fece il provino con la Fede Arnaud. Sì. E disse: no, mi dispiace, la tua voce porta a dare del tuo al personaggio, invece tu darai del lei per tutto il film. Ma cioè, hai ragione, forse era una vocalità, lei era così. Però poi tu facessi questo provino, mi piacerebbe che tu cominciassi questa trasmissione. Good morning, Vietnam! Sono 30 anni fa. Good morning qui, good morning Radio 24, sì, era una bella strappo. 30 anni fa, esatto. Era l'86, adesso 86-88, non mi ricordo mai, sbaglio sempre. Guarda, noi tra uno abbiamo l'altro. La memoria storica, fra un po' ci correggeranno, ecco. E mi passeranno all'orecchio qual è la data, io farò credo finta di saperlo io. 88? 87. 87, sono allora esattamente 30 anni fa, sì, esattamente 30 anni fa. E io ce l'abbiamo qui noi un pezzo del... No, di Good Morning Vietnam, non ce l'abbiamo. No, dobbiamo trovarlo. Adesso Rachele lo cerca, ma mentre... Per cui tu cominci con il teatro, con sì. L'Accademia Nazionale. Come bisognerebbe cominciare, sì. Qualsiasi tipo di carriera, io dalla base? Subito allo stabile dell'Aquila, che era appena nato. Sì. Allora, e ci sono stato 3 anni e poi ho cominciato ad andare dappertutto, ho lavorato un po' con tutti, ma purtroppo ormai sono morti così tutti. Se ne sono andati, erano grandi quando tu eri piccolo, sì. Adesso tu sei grande, anche se devi mostrare almeno una quindicina in meno. È naturale, però piano piano se ne sono andati tutti. No, vabbè, ho lavorato con... Enriquez, Ronconi, Cobelli, Gisti veri, tutti quelli, e i colleghi. Pensa anche con Zurlini, che ha fatto una regia teatrale, che lui era cinematografico. Ci abbiamo un Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll. E dunque si rockeggia, si roleggia dal Da Nang al Mememe Kong, ecco, era tutto così. Mi sembra quel vecchio film di Elvis Presley. Senti. Viva Da Nang, oh viva Da Nang. Da Nang me, why don't you get a rope and hang me. Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, mi è scappata, sono le 6 antimeridiane. Che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto. Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marti da infarti? Grazie per il tuo sangue velutato, ma io non sono Peggy Lee. Allora, era tutto così. Tu pensa, mettiti nei panni dell'assistente, dove taglio? Sì, ma soprattutto tu se sbagliavi una virgola lì, un ritmo, cominciava tutto da capo. Non c'era adesso, come adesso c'era, no, il sistema in col computer, che potevi ricominciare, magari cambiare una lettera, certo. Mettere una doppia, certo. Consonante, ti aiuto io, riprendiamo da qui, dalla L, certo. Era un po' più complicato. Era insomma. Soprattutto, mi ricordo, il rullo 9, me lo ricordo, era... Che era il finale, poi, il finale. Sì, era più o meno quando lui si su quella jeep e si ferma perché c'è tutta la colonna di camion e incomincia a parlare con quelli con sul tutti, camion fermi. Vero. Ecco, quello. È tutto un rullo di 20 minuti, tutto di fila. Sì, no, lì è stata la nascita. La vostra, insomma, avete camminato paralleli, perché lì è stata un'escalation pazzesca di Robbie Williams come attore. Sì, pensa che io non l'ho mai conosciuto, purtroppo, no. Però mi sembrava di conoscere, che fosse un persona amico mio. Squisita. Ormai l'ho doppiato così tanto che sapevo tu dove pigliava i fiati, dove è vero, ma poi sei molto, molto, ma molto simile, sì, persona di grandissima umanità. Io ho avuto la fortuna di sfiorarlo a un Costanzo Show e stava facendo Mrs. Doubtfire in quel periodo. Sì, e io l'ho visto da casa, nessuno mi aveva detto che era arrivato a Roma, per cui io a casa guardavo il televisore. Almeno una volta Viggo Mortensen mi hanno avvertito, sono andato a trovare. A me non mi hanno avvertito, e l'ho visto da lì e hanno fatto dei pezzetti di Mrs. Doubtfire. E infatti lui ti salutò, si è complimentato. Si è complimentato con il doppiatore. E ha detto sì, a Carlo Valli, in questo film di doppia assolutamente lui, perché all'inizio aveva detto: ma mi doppi tu? Ho detto: magari, figlio mio, no, io non posso, non potrei mai, ma è il bravo Carlo Valli. Per cui da lì è cominciata questa collaborazione stretta contatto con uno di famiglia, è vero? Dopo è uno di famiglia, quando se n'è andato e no, ci ha lasciati, è stato già brutto per tutti, ma per te che ci hai camminato per tutti, anche per me, certo. Io appunto ti dicevo, mi sembrava quasi di conoscerlo, ma poi soprattutto il fatto così come è andato, come se n'è andato, sì, forse che non si sa bene perché, oppure si immagina la sua qualcosa, grande forza, lo grande essere così ciclonico, così forte. Il cervello tante volte diventa la tua arma migliore ma peggiore nei tuoi confronti, perché poi rinculo dell'esplosione di quella pistola che è il suo cervello è tornato così forte indietro che l'ha massacrato. Poi non sappiamo Esattamente come andava. So soltanto le ipotesi sono tante, sì, sono tre o quattro, ma insomma poi no. La depressione credo che sia... Non lo so, nemmeno tanto, magari quello. Anche la depressione oppure la malattia, non so. È pare vero. Che fosse molto amico di quell'attore inglese che aveva questa malattia, che ha, perché è ancora vivo e ne soffrirà tantissimo. E si telefonavano spesso, si sono sentiti una settimana prima che lui morisse. E forse lui aveva la stessa cosa, per cui non ha voluto arrivare fino al punto di diventare... Il suicidio come arma principale per vincere almeno poi, contro la malattia. Uccido la malattia, ma uccidendo me stesso, però insomma, lui rimarrà per sempre. Arrivano tantissimi messaggi, molto belli da confronti, per me è una grande gioia poter salutare Carlo Valli. Carlo Valli per me è uno dei più grandi doppiatori, uno dei doppiatori preferiti attori in assoluto. Un Gulmon in Vietnam sarebbe mitico, lo so, ma sono passati 30 anni, abbiamo fatto fare a Carlo di 30 anni fa, senza senso. E Dino Capuano ti saluta, eccetera. Grazie, poi parlano delle critiche, ovviamente. Beh, speriamo che sia finita qui. Che insomma, finiamo le critiche che lasciano il tempo che trovano. Allora lei ne trova parecchio di tempo, o no? Ma ho dovuto chiarificarla. Al minimo una piccola scusa la meritava il fatto di aver avuto a che fare con una persona, sì, ma poi non era giusta la mia invettiva. Per cui, giustamente, uno è tanto bravo ad attaccare, ma sei anche bravo a chiedere scusa ai momenti giusti, Carlo Valli. Però io mi sento un momento. Di un altro momento importante della tua carriera come doppiatore è Robbie Williams, che è L'attimo fuggente, che è un film che non morirà mai. Quello è stato un film bellissimo, veramente. Mi ricordo le prime proiezioni in sala, la gente piangeva, uscivano tutti con il fazzoletto sugli occhi. Ma sì, ma tuttora sono quei film che cominci e dici, beh, vedo solo poi, sto pezzetto. Poi è fatto molto bene, devo dire. Il finale è proprio fatto apposta per far piangere, certo, però in maniera molto intelligente, perché si parla di poeti. Era molto bello, sì. Bello anche il titolo originale, The Poets Society. Voi sapete che io dei poeti morti, estinti, morti, no? Insomma, scusate il mio inglese, sapete che sono bilingue, no? Romano e italiano, tranquillamente. Ascoltiamolo allora, Carlo Valli nel corpo di Robbie Williams in questo bellissimo film, in questo momento dell'attimo fuggente. Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista. Ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così. Oh, Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani con cittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me? Cane, signore? No, oggi no. Guardi che un cane fa bene ogni tanto. Uno può fare un pasto completo a base di cane. Si comincia con crudité di dalmata. Si continua con un bel cocker flambé. E per dessert un pechinese al peperoso. Eccolo lì, sempre brillante, che bello. Che voce giovane, sapevo. Vabbè, ma 30 anni, quando questo 30 anni no, ma 20 tutti, almeno. Sì, no, ma poi ma c'è scusa, Gumori Vietnam è l'anno dopo di L'attimo fuggente, l'anno dopo. Attaccato proprio, così sì, vicino era. L'anno dopo. Cioè, hai inanellato successi uno attaccato all'altro. Quei due sono stati proprio uno dopo l'altro. Eh sì, no. Ma un anno dopo l'altro. Fuggente. Per cui sempre 30 anni, ma poi non è la voce leggera o no, era giusta. Sì. Se tu dovessi doppiarla adesso, utilizzi quella voce. Cioè, insomma, arrivano, ma devo dire che stai fando esplodere internet. grande affetto, grande stima come attore, come doppiatore e come direttore. Questa fa ridere, che il cane Valli doppia anche il cane Segugio. Sì, anche è vero. Se volete sapere qualcosa, ma ci senza sta indugio, insomma, su Segugio. Esatto, si può fare, insomma, anche perché l'altra volta vengono dei colleghi nostri che fanno delle pubblicità particolari, magari qualcuno si vergogna anche di certe pubblicità, no, ricordo, ma nessuno se deve fai, fare. Esatto. No, ma lo prendevamo in giro, chi c'era che doppiava il personaggino dei sofficini. Vabbè, insomma, attori, sai, quando sei attore, doppiatore consolidato, eccetera, eccetera, diventava divertente, ma è divertente, come per i cantanti, aver cantato magari le sigle dei cartoni animati e poi magari aver fatto delle canzoni indimenticabili. Uno non deve mai dimenticare da dove si parte, no Carlo? È sempre il lavoro e sì, l'importante è farlo sempre bene, con grande dignità. Devi fare bene tutto, sì. Quindi sono poi basta, quindi poi dopo non te ne vergogni, no, mai, quello assolutamente. Poi insomma lascia il segno, perché come vedi la voce è riconoscibile e c'è, per cui L'attimo fuggente è veramente meraviglioso davvero, e hai vinto tanti premi. Quest'anno poi non abbiamo ancora parlato, ma il 23 c'è il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e il Grande Valli, c'hai più candidature di Ben-Hur. Sì, sono in nomination in 5 categorie. Sì. Allora, come miglior film, miglior che doppiatore. Barriere, ricordiamo. Il film è Barriere. Barriere con Denzel Washington. Denzel Washington che fa il protagonista ed anche il regista del film. Sì. Miglior film, miglior direttore, miglior adattamento, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista. E sei sempre tu il protagonista, che sei il direttore. No, vabbè, sei l'adattatore e il direttore. Voglio dire, il lavoro vero quello, il lavoro straordinario. L'attore protagonista è Francesco Pannofino. Voglio dire, no? Certo. Lei è Laura Romano, sono due grandi, sì, due veramente colonne. Due grandi. E vorrei citare anche Franco Zucca, che fa l'amico. Grande Franco. Grande Franco. E Sì, perché è teatrale, lì, e quelli sono. Sì. E Mori, Simone Mori, che fa, doppia un attore che aveva già doppiato in Forrest Gump, sì, dove qui fa il fratello, un fratello ritardato un po' particolare, sì, che c'ha una pallottola nella testa e quindi straparla, parla con i santi, col paradiso, sì. No, film lo fa molto bene, bellissimo, veramente bello. Dovete avere un paio d'ore e mezza disponibili, sì, però intenso, di parola, un film anche lì parola, è perché è tratto da una commedia. Sì, e lui infatti ha aspettato, l'ha visto prima, l'ha fatto prima a teatro con tutto lo stesso cast, Denzel Washington, poi ha detto siamo pronti, facciamo il film. Un film difficile anche da adattare. Sì, da doppiare sì, non ne parliamo. Adattare sì, anche lì lui non prende mai fiato, una roba incredibile. E Francesco è stato veramente bravo, come Laura che è straordinaria. Francesco, devo dire che l'ha aiutato, questo lo dico perché siamo amici con Francesco, una bella bronchitella che aveva in quel periodo l'ha aiutato. Abbiamo dovuto rifare delle cose, certo, proprio perché aveva la voce che se ne andava ogni tanto. Certo. Perché stava proprio male. Però anche Denzel Washington, il film, era un uomo rovinato dalla vita, anche un po' alcolizzato. Non che questo Francesco Poverello non è alcolizzato, ma aveva solo una piccola bronchite, che ogni tanto gli ha velato quella voce, gliel'ha strappata un po' ed è riuscito con una bella direzione. Ci ha messo anche tanto. Mi sa che quello è stato un film che ha richiesto veramente tanto tempo. Abbastanza. Guardatelo, perché non ha avuto tanta fortuna al botteghino come tutti i grandi film. Sì, non è un film di botteghino. Esatto, però recuperatelo sulle varie piattaforme o anche in DVD che esiste, per cui date un'occhiata. Ma poi io leggo qui, c'è un film che di una cosa è passata alla storia, che è Grosso Guai a Chinatown. Me l'ho dimenticato che quello tu era bellissimo. Quello mi sono divertito come un matto. Film di John Carpenter che non ha avuto fortuna, brillante, che ha fatto spendere l'ira di Dio dei soldi alla distribuzione. L'hanno attaccato lì. Carpenter c'è avuto un momento di depressione, ha detto vabbè, smetto, perché gli davano un sacco di soldi per fare film grandi. Quello non andò bene, come dire, ma ha lasciato il segno in tutto e per tutto. È un cult movie anche quello lì. Anche perché c'è la frase quella storica: sei pronto? Io sono nato pronto. Nasce lì. Nasce, non so chi ha fatto l'adattamento, però sicuramente in italiano diceva la stessa quello cosa. Era molto carino. Molto, voglio dire, quanto tempo c'è rimasto a questo blocco? 20, sì, abbiamo il tempo di ascoltarci un pezzo di Grosso Guai a Chinatown. Ah, vero, quello ancora prima, Ma dai, era prima. Certo. Ero ancora con la SAS. Che bello, dove io ho avuto la fortuna di muovere i primi passi come brusiante. Allora, ascoltiamolo invece il bravo Carlo Valli su Kurt Russell, su questo straordinario film che era Grosso Guai a Chinatown. Qui è Jack Burton del Pork Chop Express che parla a chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre alla mia ultima moglie, io mi rifiuto di guidare più veloce di quanto possa vedere, e a parte questo è solo questione di riflessi. I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose. Quando qualche maniaco alto 2,5 metri e con l'occhio sanguigno vi artiglia il collo e vi pianta l'unica testa che avete contro la parete di un bar chiedendovi se avete pagato il conto, voi fissate a vostra volta il primitivo negli occhi e ricordatevi quello che il vecchio Jack dice sempre in casi come questi. Domanda, Jack, hai pagato il conto? Sì, ti ho spedito l'assegno per posta. Yeah! Che filmone! Era bello, che grande, recuperatelo anche questo, signori, fidatevi, Grosso Guaio a Chinatown. Ma sono i film che lasciano il segno, bellissimo, anche come, per tornare da, come l'attimo Fuga da New York, anche, Fuga che fu York, un, eh. proprio un cult movie anche quello. Quello l'hai seguito sempre tu? Sì. No, il secondo Fuga secondo da Los Angeles, no, quello Fuga da New York me l'ha fatto fare sempre la stessa direttrice di Good Morning Vietnam. Lì sono film che hanno, anche lì Jena Plinsky, chiamami Jena, anche se era Call Me Snake, vero? Sì, ma per forza. Per labiale che non c'era. Perché dicevano tutti Snake, lo chiamavano Snake. Chiamami Serpente. Snake, Serpente non ci sta, perché c'è la P. E su Snake è tutto aperto, non c'è nessuna chiusura di per labbra. Cui si è trovata per questa... cui lei ha l'ha inventato Federnauta ha inventato Iena e stava benissimo su Snake. Esatto, qualcuno si offenderà, però lui i puristi ci ha tatuato sul petto un serpente esatto, chi se ne frega i puristi qualcuno attaccherà, però quelli che capiscono che poi l'adattamento è anche questo, insomma, mantenere la stessa, perché chiamami Iena va bene uguale, poi è rimasto anche quello nell'immaginario collettivo. Sono quelle frasi che restano, ma io come l'attimo fuggente ci sono proprio delle opere come quello che oltre il film hanno anche lo scopo di informare, educare. È un film come l'attimo fuggente, non è che voglio tornare sempre a quello, dà anche questa possibilità a un ragazzo che lo vede, ci fa a vedere chi sono sti poeti, o come se senti una colonna sonora, fammela sentire chi sono sti Deep Purple. Ecco, in quel caso un film del genere apre anche la mente delle persone che lo stanno guardando. Ed è bellissimo. Io non vedo l'orario, mi devo sempre spostare, però ci siamo, manca un minuto, no, 20 secondi alla fine di questo blocco, che sono due blocchi insieme. Ovviamente rimaniamo insieme a Carlo Valli e poi sono già presenti i nostri amici del il contest sul doppiaggio che stiamo facendo da 4 mesi. Legal Warner ha dato possibilità a due ragazzi e due ragazze di entrare nel cast di un film a cartoni animati da Warner, visto che adesso è molto difficile entrare nelle sale di doppiaggio, magari facendo sempre così sempre più difficile, sempre più difficile. Ho messo i tornelli sì, hai sopra uno Benjo, dobbiamo entrare con la retina a far vedere il retroculare, insomma. Allora restate con noi, Carlo Valli, Voice Anatomy, a tra pochissimo, grazie. Sanatomi. Bentornati signori miei, godiamoci ancora per un po' Carlo Valli, che dopo dovrà scappare per i suoi impegni teatral, drammaturgici e familiari. E però prima di fargli fare una lettura che abbiamo scelto anche per lui, voglio sentirmi un altro doppiaggio, perché ne ha doppiati tanti, anche Gio Pesce hai fatto nel Padrone di Casa. Ah, una volta, sì. È bellissima, dice Mauro Meconi, che sta qui, perché è pronta a riprendere la lettura di Carlo. Lo sapete che nel nostro sito su Facebook Voice Anatomy c'è sempre poi la presenza anche video dei nostri colleghi, amici, attori, doppiatori e quant'altro. Sentiamoci Il Padrone di Casa nell'interpretazione di Carlo Valli sul bravissimo Gio Pesci. Lui fornisce alloggi a tutte quelle persone che non sono molto fortunate. Gio Pesci non cerca affetto da nessuno. Ah, fatevi gli affari vostri! Ma pretende l'affitto da tutti. Dammi l'affitto! Caca l'affitto qui in mano mia, me ne frego di tua madre. Il padrone di casa. Mi chiamo Naomi Bensinger. Come mai è qui? Vuol fare un giro in macchina? Sono della commissione edilizia abitativa. Togli quel braccio, levati fuori dai piedi! Sai quante persone vengono arrestate? Nada, zero, nessuna. Silenzio! Pertanto dichiaro l'imputato Louis Krischi Junior colpevole dei reati commessi innanzi a questa corte. Il trasferimento sarà immediato. Svolgerà funzioni di sovrintendente e seguirà personalmente ogni riparazione dello Stato. Questo è solo l'inizio. E non promette niente di buono. Sai perché non mi fa paura questo quartiere? Perché so farmi rispettare. Perché ti chiamano lattaio? Perché ho ammazzato un lattaio. Ah, già vincitore di un premio Oscar, Joe Pesci è il padrone di casa. Anche tu sei stato un bambino, tua madre ti avrà cresciuto con amore. Mia madre non mi ha mai amato. Ma non ti ha mai fatto del male. Ma questo ci pensi tu. Joe Pesci, il padrone di casa. Yeah, eccolo qua. Dalla ironico e leggero di Joe Pesci, abbiamo scelto questa lettera, non è una lettera, è il discorso che fece Mahatma Gandhi alle Nazioni Unite, e credo che la tua voce possa riraccontarcelo e farcelo un po' rivivere nella sua importante non interezza, perché lui parlò tantissimo. E allora con una musica degna dell'atmosfera di questo momento, Carlo Valli che ci legge questo momento del grande Mahatma Gandhi. Signora Presidente e amici, chissà se questi altoparlanti porteranno la mia voce fino ai confini di questo immenso pubblico. Mi perdonerete, chi di voi sa la storia, se nel ricordarla faccio degli errori qua e là, ma non ci sarà nessun errore nell'avvenimento principale. c'erano tre scienziati, e ovviamente è una storia inventata, tre scienziati uscirono dalla Francia, uscirono dall'Europa alla ricerca della verità. Questa era la prima lezione che mi aveva insegnato quella storia, che se bisogna cercare la verità, non la si trova sul suolo europeo, quindi indubbiamente neanche in America. Questi tre grandi scienziati andarono in parti diverse dell'Asia. Uno trovò la strada per l'India e diede inizio alla sua ricerca. Raggiunse le cosiddette città di quei tempi. Vide la gente delle cosiddette caste alte, uomini e donne, fino a che non si addentrò in un'umile casa, in un umile villaggio. E quella casa era una casa Bangi, e trovò la verità che stava cercando. E poi mi sono detto, se questi amici sono qui senza trovare la vera India, per cosa saranno venuti? Oggi farò anche questa ammissione. Non ne sarete affascinati alla vista. Dovrete raschiare sotto i mucchi di letame che sono oggi i nostri villaggi. Non voglio dire che siano mai stati dei paradisi, ma oggi sono veramente dei mucchi di letame. Non erano così prima, di questo sono abbastanza certo. Non l'ho appreso dalla storia, ma da quello che ho visto io stesso dell'India, fisicamente, con i miei occhi. E io ho viaggiato da una parte all'altra dell'India, ho visto i villaggi, i miserabili esemplari dell'umanità, gli occhi senza vita. Eppure sono l'India, e ciononostante in quelle umili case, nel mezzo dei mucchi di letame, troviamo gli umili Banjis, dove troverete un concentrato di saggezza. L'Occidente di oggi desidera la saggezza. L'Occidente di oggi è disperato per la proliferazione della bomba atomica, perché significa una completa distruzione, non solo dell'Occidente, ma la distruzione del mondo, come se la profezia della Bibbia si avverasse e ci fosse un vero e proprio diluvio universale. Voglia il cielo che non ci sia quel diluvio, e non a causa degli errori degli umani contro se stessi. Sta a voi consegnare il messaggio al mondo, e non solo all'Asia, e liberare il mondo dalla malvagità, da quel peccato. Questa è la preziosa eredità che i vostri maestri, i miei maestri, ci hanno lasciato. Beh, questa è una bella testimonianza che tu ci hai lasciato in questo momento, perché guarda, la diretta che stiamo facendo in questo momento su Facebook, anche se la radio è evocativa, no? Come un bel libro, non ha bisogno dell'immagine, non deve aver bisogno dell'immagine, ma in questi casi ci aiuta molto, e sono migliaia le approvazioni che stiamo ricevendo. E ormai viviamo in questo periodo storico, anche perché dopo ci saranno quei due disgraziati youtuber degli actual che fanno man bassa di milioni di follower, eccetera. Però è anche questa, è anche una strada. E poi questo che ha raccontato, insomma, mai così moderno. Cioè, sembra davvero scritto. Ha raccontato ieri alle Nazioni Unite. Penso, sì. Da parte invece sono passati qualche annetto, insomma. È bello, vedi, quando una voce è evocativa, ed è quello che ci sta arrivando, sembra di essere lì, sembra di rivivere quel momento. Ecco, queste sono cose che fanno bene a tutto, anche al calcio. Soprattutto una giornata per me come questa. Sono cose che veramente anche un ragazzo che si affaccia alla scuola, alla vita, eccetera, un discorso del genere. Ecco, senti di questo di prima mattina, esci di casa, affronti la giornata in maniera diversa. Uno deve avere queste cose che raccontano. Carlo, veramente grazie. Sto parlando hai parlato. Ci abbiamo ancora tre minuti insieme e poi ti lascio scappare. Non ti lascerei andare. Devi tornare, perché vediamo che succede. Perché anche lì stiamo a guardare, insomma, perché ci sono le votazioni dei nostri colleghi, di tutti quanti. Certo. Per cui è un voto vero, ma a parte quello è una festa vera per gratificare una categoria di persone che veramente si impegna tanto. si impegna tanto, e parliamo dei nostri tecnici del suono, dei mix, dei nostri assistenti. Non bisogna dimenticare. Mai, perché sono fanno veramente un lavoro importantissimo e sempre anche mal retribuito. Esatto, poco retribuito. Perché poi la gente c'è nell'immaginario collettivo, si immagina, beh, il film ha incassato 20 milioni, tu Carlo avrei guadagnato un milione. No, sì, il doppiaggio è proprio l'ultima briciola. Esatto, non è così, anche se è un lavoro meraviglioso, artigianale meraviglioso. E anche quello dell'adattatore, tu lo sai, insomma, perché da lì comincia, ti arriva il testo, ti arriva il film e lì comincia l'avventura. Sì. Come per quanto riguarda Barriere, che è stato, ripeto, un film che dovete... Ma io mi avvalgo fortunatamente di un traduttore bravissimo, perché io non sono in grado di tradurre dall'inglese, lo comprendo un pochino. Io neanche lo parlo. Non lo parlo e non sarei in grado, però ho un traduttore veramente bravo, che tra l'altro è quello che mi ha tradotto Gran Budapest Hotel, che è un altro... Bellissimo, che hai vinto anche lì, un premio bellissimo. Un altro film bellissimo, dove lui è stato... Chi è il nome mi sfugge, il traduttore? Lasciamo stare. È uno Richard bravo. Mead. Vabbè, è un ragazzo che è veramente... Madrelingua. Sì, trova le parole giuste. Sì, anche mette le parole dell'epoca. Cioè, in Gran Budapest Hotel mi ha tradotto proprio già con le parole che si usavano all'inizio del Novecento, invece di quelle normali, quelle nostre. Sì. È tutto lì. Con lui si fa pochissima fatica. E poi c'è l'adattamento in sala, perché insomma, come Jena Plinski, bisogna trovare l'adattamento giusto per rendere vero è importante quello che si sta facendo, ma è tutto lì. Infatti io lo dico sempre, non è che il doppiaggio evita alla gente di imparare una lingua, veicola un film, veicola un libro, è come se Umberto Eco in Francia lo leggi in francese, deve essere bravo ovviamente l'adattatore e il traduttore certo, dall'italiano al francese, per rendere quella vocalità, quelle parole giustamente traducibili e che diano quel significato. E nel nostro campo anche l'attore deve essere, è quello, lo scegli sempre tu perché sei il direttore, per cui a quel punto ti accompagni sempre di persone molto importanti. Senti, va bene, che succederà adesso? Che stai facendo? Le serie? Tu sei anche tu un serious man? No, un uomo serio, un uomo di serie. Sì, mi hanno dato un paio di serie da dirigere, che è il secondo anno che si fanno. C'è più tranquillità qui? Oppure devi consegnarle il lunedì, te le danno il venerdì? No, c'è sempre fretta, come al solito. Questa è un po' la rovina di questo periodo storico. Come dicono a Napoli. Esatto, perché è più difficile, qui arriva traduzione, adattamento anche lì. Entra in sala, no, io dei faccio solo il direttore per fortuna, perché sono serie che già il secondo anno che fanno, quindi ci sono già traduttori e adattatori già sono messi in grande movimento. Che vuoi far sentire, caro Mauro Meconi? Siamo arrivati alla fine. Ah no, perché Mauro prepara anche i tagli dei film doppiati dai nostri ospiti, per cui ci hanno detto non hai fatto sentire di Carlo Valli, devi rimanere qui 3 giorni se dobbiamo far sentire. Ma io vengo volentieri un'altra volta. Devi tornare. basta che mi telefoni, io vengo. Sì, sei precettato. E allora, signori miei, grazie, noi adesso andiamo avanti con i nostri amici gli Actual. Basta che non devono parlare del derby, vero Mauro? Loro non si parla, smettila tu. Vedi, io ho detto che si vive in una società multilaziale e loro continuano a trattarci così. Vabbè, viviamo con grande serietà, vivi con classe San Diego, come dicevo in un film. Carlo, grazie, in bocca al lupo, grazie per il 23. Ci vediamo lì. Sul palco, spero di abbracciarti sul palco. Anch'io. Perché senza nulla togliere ai nostri colleghi, però il lavoro che hai fatto, tanto io non voto, per cui ti posso solo premiare se arriverà quel momento. Beh, speriamo, ti abbraccerò volentieri. Speriamo che succeda. Succederà. Carlo Valli, grazie. Ciao, a Boys Anatomy, grazie. E con voi continuiamo fra Salute pochissimo. Assolutamente, grazie. Ciao. Carlo, grazie. A tra pochissimo, Boys Anatomy. Boys Anatomy. Scusate, abbiamo lasciato un po' più di musica perché ho dato modo ai nostri ospiti, i nostri, non so come definirli, poi loro me lo diranno, se sono io, attori, youtuber, queste nuove definizioni mi sfuggono un po', per sistemare bene il microfono tranquillamente. Sono gli Actual, ma al secolo sono Lorenzo Tiberia. Ciao, ciao Pino, eccolo. Grazie, grazie per l'invito. Ma per carità, Leonardo Bucci. Bocci, ma va bene lo stesso. Questo è, perché se la, perché stesso da, già inizi con i frecciatini. Guarda, lo correggo, Bucci, perché se quando uno diventa un gruppo, no? È come Lorenzo Bocci, lei. Amico, forse fratello di Marco Bocci, magari, quello magari. Bello di squadra antimafia. No, beh, è così, quando c'è un gruppo, no, perdi anche l'identità del nome. Noi avevamo la premiata ditta e noi ci chiamavano il quartetto del trio. Una volta addirittura ci divertivamo con il trio e a raccontarci come ci riconoscevano per la strada. Vedi i Marchesini. Per esempio oggi, che non l'ho detto all'inizio perché ho dovuto spiegare la cosa che è successa la scorsa settimana, oggi nasceva nel 53, però questa giornata, Anna Marchesini. Anna Marchesini, io voglio mandargli un bacio gigantesco come tutti voi, immagino, e tutti, perché Anna era una donna straordinaria, un'attrice che... lo sapete, quello non c'è bisogno che ve la racconti io, ma era una donna straordinaria, una madre straordinaria, che ha amato sua figlia fino alla fine, fino all'ultimo momento. È inutile spendere parole, sono già state spese da persone. Noi ci conoscevamo bene, tutti noi, perché il periodo storico era quello, il trio, la premiata ditta, camminavamo un po' paralleli, non c'erano tutti questi gruppi, non c'erano tutte queste trasmissioni, certo. Non c'era ancora tutto questo internet, per cui le persone che lavoravano in televisione, che facevano un certo modo, sono stati i nostri primi punti di riferimento quando eravamo all'Allegra Brigata. C'era questo trio radiofonico che faceva Elsa Poppin, che ci ha dato veramente, prima sentivamo la trasmissione, poi uscivamo di casa. E poi insomma il resto è storia, ovviamente, con Tullio Solenghi e il grandissimo Massimo Lopez. Va bene, mi sembrava doveroso mandare un bacio ad Anna Marchesini. Allora, carissimi, nasce qui, intanto la prima serie che vi ha decretato il successo, sì, era I Romani, il serie romanista. Serie romanista. Sì. Già questo, io quando si è deciso di avere come ospiti, l'hai maledetto. No, Mauro. Mi era sfuggito il fatto che veniamo sempre. Devo dire, a me succedono sempre cose dopo un derby che perdo. Davvero? Mi operai di Cistifellia, cioè il lunedì dopo un 3-0 della Roma. E entrai ovviamente al Sant'Andrea a Roma, e mentre portavo un barella, i barellieri, l'infermiera, fatte se mangiate il fegato. Cioè, per cui ho trovato sempre delle realtà dove non potevo sfuggire. Cioè, il lunedì, quando Roma vinse il campionato l'anno dopo, quello della Lazio, non ci ha dato tempo neanche di godere un minuto. E tipo, uno dico: sono stato ca Schiffer, il giorno dopo, amico tuo, io sono stato ca Campbell. Certo, sei goduto manco quello. Il lunedì cominciavamo Finché c'è ditta c'è speranza a girare la terza stagione di Finché c'è ditta c'è speranza. Di lunedì ovviamente 80 tecnici, di cui 70 della Roma, bandiere ovunque. Io cominciai così, sempre così. Guardate Mauro Meconi che sta qui, non capisco per quale motivo tu sei presente. Solidarietà romanista. Ma bene, e mi ricordo che Radio 24 è una radio nazionale se non internazionale, se no poi oggi no. No, oggi è romano e romanista. No, smettetela, dobbiamo parlare di voi. Come è nata questa avventura? Voi siete figli di quest'epoca, ovviamente. Sì, siete giovani. Sì, quanti sì. anni avete? Vabbè, insomma, 30. 30 e 27. Tu 27, sì. Bucci Bocci? Bucci Bocci 27. 27. Sì. Chi è di Roma Sud e chi è di Roma Nord? Ecco. Oppure è stata l'invenzione? Vediamo se... No, per me indovini te. Siete di Roma Sud. Te. Potrebbe io sto a Monteverde Vecchio, che è centro, ma non è così fighetto. Poi Monteverde Vecchio era un quartiere popolare, è diventato un po' più raffinatino. Un po' più radical. Sì, ma noi ci siamo nati lì dentro, insomma. Sì. Io parlo anche dell'amico Alex Britti, Luca Barbarossa, anche loro sono... Mi hanno già telefonato, tranquilli. tranquilli, ho già pagato pegno anche lì. E io meno male che lo accetto con grande serenità. Ma infatti ti vediamo sorridente. No, è nei miei paresi. Al 2-0 mi è venuto a stare miei paresi e sembra che sia un sorriso. Pensavo che fosse annullato l'invito oggi. Invece. No, pensavo che fosse annullato il gol, ma come invece no, non è annullato. No, io affronto grande educazione. Infatti sono molto apprezzato perché, insomma, poi lo sanno tutti per strada. Io vorrei vincere un derby solo perché così almeno sto tranquillo. Almeno appena 10 giorni invece passerò dei giornate veramente infernali, ma sempre molto educate. Insomma, nasce con questa serie romanista all'inizio, ma poi è sfociata nel grande successo. Sì, diciamo che abbiamo iniziato appunto raccontando un po' la fede giallorossa, no? Quindi vari episodi sulla Roma, divertenti, e quindi fare anche una serie su tutto questo. Dopodiché ci siamo guardati, mi ricordo, stavamo a Milano, era il 2013 che ci hanno infatti di Mafia Capitale, insomma. Ecco. una cosa leggera. Mi hanno detto, ma perché non cavalchiamo un po' l'onda e facciamo la parodia di Romanzo Criminale sui fatti di Romanzo di Mafia Capitale. E là è nato Romanzo Capitale. E il nome Actual, perché comunque all'inizio volevamo fare tutte notizie, volevamo riprendere tutte notizie attuali che succedono in quel momento, che succedono in quel momento. Poi diciamo che abbiamo continuato così per un paio di anni, fino a che non ci è venuta l'idea di fare questo Rimorchiare a Roma Nord e Rimorchiare a Roma Sud, e dove da lì poi, in tutti poi Ostia Pregene, ecco perché conoscete Mauro Meconi, perché abbiamo fatto veramente Romanzo Criminale, certo. No, Romanzo Capitale, ma era molto, è molto divertente, perché poi non è che dici i milioni che fate sono visti solo a Roma Sud o a Roma Nord, è tutta Italia. Sì, in qualche caso anche a livello internazionale, perché adesso il web arriva dappertutto. Sì, ci arrivano comunque complimenti pure da gente. Da Brianza, da Milano, da profondo Milano. Ma anche quando facciamo serie romanista, comunque c'erano tifosi della Roma, ci sono sparsi un po' in tutti i paesi. No, ma è come se Sordi fosse apprezzato da Roma, giù Totò solo apprezzato in Campania, cioè se sono cose intelligenti, divertenti e carine, educate, ma anche spinte ovviamente in un certo modo, ma perché non devono piacere pure agli svizzera? Ci proviamo. Ma no, dai. È così, a me fa ridere molto, sinceramente mi fa ridere. Quando abbiamo parlato di voi, che io vi conoscevo bene, non benissimo, ma bene, e Mauro ha detto, la riconosco, posso dire? Ho detto, molto volentieri. Dai, non avevo calcolato però il giorno dopo. Non avevo calcolato. Fa martedì. A me piace molto questo l'esercizio di stile, a me piace nella drammaturgia teatrale, per cui il vostro è un bellissimo esercizio di voi sfaccettate e spacchettate il tutto, come si rimorchia lì, come si guadagna i soldi a Roma Sud o a Roma Nord, ed è bello perché, almeno per chi non lo sa, Roma Sud e Roma Nord, Roma Sud è, diciamo, è quella più popolare come idea. Roma Nord è il Pariolino, che una volta era il Pariolino. Sì, che poi l'abbiamo un po'... Ah, c'è un pezzetto, abbiamo... Io lo fare pure a loro dal vivo, però ascoltiamolo un momento dei nostri Actual. Ma guarda che dai, che domenica c'è star derby, Ma già me sta lì. Ma stanno a meno 18. Ma poi non hanno giocato col Frosinone al derby. Figlioli cari, siete pronti per il santo derby? Certo, non sa. Stavamo a parlare di questo. Questa sarà una settimana molto particolare. I razziali non si nasconderanno e qualcuno di noi potrebbe addirittura rischiare di rivolgergli la parola. Ma chi ci ha mai parlato? Ma te pare, Don Sa? Poi dove ci hanno guardato? Il nome ci ha provato. Allora, che cazzo gli dimo? Vabbè, gli dimo... Da che segno sei? Sì, che so, Paolo Fox. Gli dimo, da abitate? Ma che stiamo a fare, Digos? Che bella giornata. Sì, il meteo. Vabbè, allora dire quello che cazzo te pare, non lo so. E non mi ferma niente. Ma rendi conto che abbiamo combinato? Ma che cazzo fa? Che cazzo fa? Don Sandro ci aveva pure avvertito. Dio santo. Dio santo. So che siete entrati nella casa del peccato. Lo so, abbiamo sbagliato. E avete colto il frutto proibito. Ti prego, perdonaci. Ma la settimana è il derby. Vabbè, ma era una botta e via. Sì, ma erano dalla Lazio. Che potremmo fa? Due campo d'estaccio, grazie Roma. Tutto intonato, poi scegliamo pure delle cose. Cerchiamo di farla passare sta giornata in maniera serena, no? Però... Grazie Roma. Sì, no, la canzone è bella sicuramente, ma Antonio Venditti è un amico, per carità di Dio. La canzone, credo che ce l'ha pure in 45 giri, pensa. Ammazza. No, ma quando le cose sono belle, certo, no. Non lo urlo per la strada. Perché io pensavo all'inizio che era una canzone dedicata alla città di Roma. Poi piano piano poi ho capito che c'è dopo, gialla come il sole, rossa come il cuore mio. Ti aspetta un attimo, adesso tanta una bella canzone. Ormai hai comprato, ormai sta già comprato parte della storia, tengo lì vicino a vola l'aquila nel cielo e li metto vicino così c'è una compenetrazione. Ma a me veramente mi diverte. Poi avete veramente dei seguaci, veramente. Sì, tanti. Diciamo che ormai è il presente il web, nel senso che è la nuova televisione di una volta. Diciamo che da Roma Nord e Roma Sud siamo cresciuti tanto, perché ecco, prima facendo magari dei video satira sulla politica, eccetera, magari non prendevi la grande fetta di pubblico, e poi su Facebook ci sono tanti ragazzi giovani, certo, che magari non seguono. Invece facendo dei video un po' più commerciali, un po' tipo i cantanti quando magari fanno le canzoni pop, siamo riusciti a prendere una fetta ancora più grande. Quindi... Sì, no, ma l'importante è crescerci dentro a queste cose. Perché normale si parte da una cosa, da una base, quella base ti sostiene, a quella base piano piano mi fai vedere che stai modificando, non per rinnegare da dove è partito. Perché per fare che, quello che poi uno non è che vuole cose fare. Drammatiche sono importanti, cioè, no, cose comiche sono brutte, lo diciamo sempre con tutti gli attori che ci sono. Sono interpretazioni della vita, poi la gente si riconosce, non è che voi veicolate la gente a fare alla 200 sull'autostrada Embriaco. Quello insomma, altrimenti. Però ormai sono centinaia di migliaia, anche milioni di visualizzazioni. Sì. È un lavoro. È diventato un lavoro, sì, perché era partito tutto per gioco. Insomma, no, adesso non si gioca più. Adesso sei uscito da scuola, da casa, non devi lavorare. Ormai tocca pedalare. Adesso devi pedalare. La televisione. È venuto la bicicletta. Mi sa che siamo arrivati alla fine del blocco, 55, vero? E 6, mi dice. Vabbè, mancano 10 secondi. Restate con me fino alla fine, ovviamente. Siamo qua, siamo qua. Adesso si atteneranno anche i ragazzi per questo contest sul doppiaggio e ce l'ascolteremo insieme. Atteneremo un po' di recitazione di un certo tipo. Un po' di cazzata. Un po' di cazzata, esattamente. Scusate, mo Aldo Grasso si arrabbia perché parliamo romanaccio. Guardate qua, a tra poco, Voice Anatomy e gli Actual. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 15 e una manciata di secondi, vicino a me gli Actual al secolo, Lorenzo Tiberi e Leonardo Bocci, che hanno portato al successo queste serie, queste web series, ormai quello è il futuro, diciamo, sta lì, il core business, come si dice in comunicazione. Sì. Ma è presente quello. Ormai, presente. Beh, se pensiamo che anche tante serie e tanti film vanno su piattaforme tipo Netflix, quindi noi, sempre web. Grazie a loro lavoriamo pure il quarto turno, perché se si capisce, se le serie, vabbè, è cambiato anche quello di lavoro, perché adesso con queste serie che non puoi dire... Se conosci il finale della stagione, per cui firmiamo dei diritti, certo, non so, se io dicessi adesso come va a finire, arrivano direttamente quelli da Netflix. Invece abbiamo qui, sarete testimoni di questo momento, di questo contest, perché non è un talent, di attori, giovani attori e non, che provano a entrare nel mondo del doppiaggio. Allora abbiamo chiesto, ovviamente è successo il panico vero, come quando voi fate le cose in internet. E stiamo dando la possibilità, abbiamo ancora due puntate per decidere i 12 finalisti, ma sono stati più di 100 quelli che si sono alternati a questi microfoni e più di 2000 quelli che hanno chiesto la possibilità di farlo. E noi abbiamo ascoltato tutti. E allora signorina, come ti chiami? Marianna Liguori. Da dove chiami? D'arte Mary Colt. Ho anche il nome d'arte, penso un po'. Ah, io ho un nome d'arte invece. Come un nome d'arte? Mary Colt, perché mi fa paura sta cosa. Mary perché... Colt, pistola. Sì, no, quello l'ho capito. Dio ha reso gli uomini uguali. No, in realtà Colt è nato... li ha resi diversi. Questo è nato per necessità, poi è diventato anche un nome d'arte. Ma come per necessità? In che senso? È lunga la storia. Ma tu sei ai domiciliari e non potevi stare qua? No, questo no. Ha una Colt nella borsetta. Sai, per necessità mi chiamo Colt, cioè, ragazzi, cioè, mi fa pensare... Sei giovane, di dove sei? Allora, io in realtà sono mezza calabrese e mezza napoletana, quindi... Ho capito, c'è una vita semplice però, vedo. Sì. Sarebbe una puntata con te, non un contest. Altro che Gomorra. Nata a Scafati, vissuta per 20 anni a Catanzaro, vabbè, non esageriamo, e poi per 10 anni a Napoli adesso. E adesso stai a Rebibbia. Va bene. Adesso stai a Rebibbia. Che cosa ci hai portato, amica mia? Ho portato un pezzo di Hilary Duff in Cinderella Story, del regista Mark Rosman. Ok, adesso ti ripresenti nome e cognome, il titolo del brano, così possiamo poi tenerlo per giudicarlo dopo, sì, ovviamente. Ok. Quando vuoi. Cinderella Story, regia Mark Rosman. Come ti considero? Un codardo, un falso. Ascoltami. Ti sei rivelato esattamente per come ti immaginavo. Ed io non ho mai finto di essere qualcun altro. Sono sempre stata me stessa. Ed è me che hanno umiliato davanti a tutti. Senti, non sono venuta qui per litigare con te, ok? Ma solo per dirti che so cosa si prova quando hai paura di mostrare chi sei veramente. Anch'io ero così. Ma sono cambiata. E adesso me ne infischio di quello che la gente pensa di me. Perché io ora credo in me stessa e so anche che i problemi prima o poi si risolveranno. Ma anche se non ho più una famiglia, né un lavoro e neppure i soldi per l'università, sei tu quello che sta peggio. Io so che il ragazzo che mi ha mandato quelle mail è da qualche parte dentro di te. Ma io non posso stare ad aspettarlo, perché aspettare te è come aspettare la pioggia durante la siccità. Inutile e deludente. Ok, Mary Colt. Mary Colt, ah sì, perché non hai detto il tuo nome. Marianna Liguori, scusatemi. No, vabbè, non ti preoccupare. Bene, tanto non siamo noi adesso a giudicarlo adesso, mi sembra vocalità leggera, ovviamente, un po' tatina, ma sei giovane. 30 anni. Te li porti bene. Anch'io 32, portati con grande dispiacere. Con grande, grande dispiacere. Va bene, Mary Colt, grazie. Grazie, sarà grazie presa a voi. In grande... attenzione come tutti quanti voi, e poi già il fatto anche comunque di essere a Radio 24 è già un onore stare qui, quindi no, sono... onore, insomma, io ringrazio voi che siete venuti da tutte le parti d'Italia per raggiungere un sogno, e io sono felice di potervelo veicolare in qualche speriamo. Modo speriamo, grazie e complimenti. Grazie a te, Mary Colt. Ciao a tutti. Mi fa paura grazie. Dire qualcosa contro Mary Colt, visto mai mi aspettasse qua fuori e fare la fine. Signori, che state facendo in questo? Mi raccontate una cosa, come conquistare Roma Sud e Roma Nord? Fate l'esempio, quello che volete, che mi piace, poi come a te l'attualità mi piace la diretta di certe cose, sentirlo su internet e scaricarlo. Siete qui. Tu preferisci Roma Nord o Roma Sud? Ma guarda, io sto in me, mi divertono tutte e due perché conosco tutte e due le realtà, l'ho vissute, sono nato nel 59, per cui ho vissuto gli anni 70 in pieno, gli anni 80 in pieno, dove c'era questa grande diversificazione, non raccontata come Roma Sud, ma c'erano i Goatti e c'erano i Variolini, c'era quello che aveva spetta in punta con... la giacchetta, i Camperos, già avevi serie di Roma Nord, io ho fatto il 30 agosto io che i Camperos mi sudavano pure i Tarloni, pur di stare con i Camperos, per cui quello che volete voi, dai, faccio ma il diciamo tifo che tutte e due. Nei video nostri, ecco, appunto c'è il rimorchio Roma Sud, il rimorchio Roma Nord, quando Lorenzo, che è di Roma Nord, decide di conquistare una ragazza di Roma Sud al Circolo degli Illuminati, in discoteca, si rivolge a me per cercare un po' di conquistarla, poi quindi arriva con questo Ferrari affittato. Aspetta che pure Mauro ti riprende. Vai. Beh, ma è giusto, godiamo dei vostri fammi rubare qualche like pure a me. Noi abbiamo 20.000 like fino adesso di una pagina, ma insomma non... La trasmissione, che insomma non è una cosa da poco. Poi magari chi viene e vede per 100.000 una cosa non mette i like, perché... Se l'hai vista, ma è difficile fargli mettere il like. Noi stiamo a combattere da anni. Vediamo quanto mi valgono su questa pagina oggi di Voice Anatomy gli actual. Madonna mia, ragazzi, vi chiedo scusa, soprattutto a Roma Nord e l'Italia del Nord. Allora, rimorchio. Quindi c'è Lorenzo di Roma Nord. Lorenzo Roma Nord, mi innamoro. Elegante. Esatto, mi innamoro di una barista del Circo Illuminati, che è un Circo locale di Libetta, che è particolarmente bora, certo. E io gli faccio cadere questo cocktail addosso e lei me ne dice tutti i colori, però più mi insulta e più mi innamoro e comincio a dire è dolcissima. Allora io per conquistarla cerco di diventare boro, quindi praticamente mi affitto un Ferrari bianco, mi faccio tatuaggi finti, mi metto l'orecchino, mi metto i capelli all'indietro e mi presento da lui, che è un po' il mio tutor per cercare di rimorchiare questa ragazza, e lo guardo e gli faccio... che dici, sono abbastanza boro così, mezzo che si innamora, sono top. Sì, vabbè, ma senti come stai a parlare. Ma perché, come parlo? Ma sembri uscito da Armet, ma come parli? Ma sembri Silvio Muccino. devi essere più scacciato. Tipo te devi sentir calla. E qui c'è a sventolarmi. Senti, è il pepe al culo. No, vabbè, il pepe al culo no, ti prego, dai. Ma è un modo di dire il pepe al culo. Taglio. A devi buttare. Taglio. Leo, non credo di essere pronto. Vabbè, ho capito. Ma... E qua gli metto un po' di una regolare. E lui mi comincerà a dire. Inizio a guidare. Sì, e lui, come tu, ecco, questo per esempio è una tecnica della ma spettacolo classica. Capire una cosa al posto di un'altra. Spingono, ma poi insomma. Lo so, vediamo quanto vale sta cazzata che hanno fatto. Mi porta 100.000 like. A questo punto devono venire pure domenica prossima e farlo. Mi potete fanno alzare Pino? No, Api, veniamo al prossimo derby. Non ti preoccupare, no, non ci sarà rivincita come Rocky Balboa. E chi la cerca? No, va bene così. Assolutamente. Abbiamo un'altra persona. Ecco di qua, sei un po' più grande tu. Abbastanza. Domani sono 47. Macello, 100 anni più di me. Non ridete. Come ti chiami? Allora, io sono Rosario Marco Amato, sono un attore siciliano. Siciliano, siciliano. Detto Beretta, anche detto no, per l'altra Colt, perché l'altra è Mary Colt. Esatto, lui Lupara, che sono. Esatto. Sicilia dove? Catania, Catania. Bella, bellissima, Catania e l'Arancino. Si risolverà sta diatriba fra Arancino e l'Arancina palermitana, chi è nato prima, chi è nato dopo? Questo solo non io sto spesso dietro a Catania, insomma. Comunque è buono ugualmente. Sì, sì, anche la cipollina, ma parliamo d'altro. Sei un attore, no? Mi sì, dicevi. Sì, stai sì, lavorando sì. In questo momento? Sì, sto lavorando al Teatro Quirino, oggi abbiamo l'ultima replica. Ah, sei qui? Sì, sì, sì, sì. Ah, ma volevo dire, ho paura che ti faccio fare tardi, ancora ce l'hai la replica? Alle 4 in teatro. Per cui sei in teatro con il mio amico Guglielmo Ferro come regia e Enrico Guarneri sta facendo Pirandello. Sì, sì, Pirandello, sì, maschera, la giara e la patente. Che bello, bellissimo, benissimo. Che cosa hai portato? Allora, ti faccio sbrigare perché sì, mi fa paura quando uno deve andare. Vabbè che è vicino al Quirino. Vabbè, infatti. Ho portato un monologo tratto dal film Il curioso caso di Benjamin Button. Ah, che bello, quello che nasce vecchio e muore giovane, diciamo. Pensa, una volta dissi questa storia, dico, madonna, mi hanno rubato st'idea, so un anno, cazzo, di veramente, ha scritta 200 anni fa, allora. Ma ero convinto, è che veramente mi era venuta in mente st'idea. Ho detto, sì, mi te preoccupa, pure Lorenz, ma 200 anni fa. O 100. Allora, quando vuoi, nome e cognome, il titolo del pezzo, c'è la musica di sottofondo, ce l'abbiamo, una bella musica, beh, una cosa romantica. Una cosa tranquilla. Una cosa tranquilla. Tranquilla. Va bene. Okay. Nome e cognome e il titolo. Rosario Marco Amato, il titolo del film è Il curioso caso di Benjamin Button. Per quello che vale non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto. Per essere quello che vuoi essere, non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Eccoci qua, intervengo alla fine. È che quanto ti sei piaciuto? Se mette pesa la sindrome di Luca Ward e di Pino Insegna. magari. No, ma cade, quando uno sa una voce piacevole, eccetera, punta moltissimo, moltissimo su quel timbro, soprattutto quando c'è un microfono. È difficile che uno ti parla così, a meno che non fai radio DJ e fai così, c'è un microfono. Capirai, diventa. Volevo raccontare un rapporto storia. D'amore. Sì, diventa tutto mezzanotte e dintorni, sì, perché sì, diventa un rapporto poi proprio. Il monologo si presta, quindi. Sì, certo. L'importante poi è variarla la voce, sì, sempre. Sì, ricordi sì, questo. Qui perché c'era tutto quanto, eccetera. Però l'importante è rendere piacevole anche con dei passaggi meno scontati, no? Certe certo volte. Essere all'improvviso e poi parlare in un certo modo e poi entrare con un altro tipo di vocalità, per poi prenderla un'altra, eccetera, eccetera. Ma non era questo il caso, questo è tanto per risottolineare il fatto di uno, giustamente, se uno ha un corpo come il mio, lo devi portare in giro per orgoglio. E non ridete! Santa miseria, ospiti orrendi, Megoni. Io offrisco gli ospiti che ci suggerisce Alessia Navarro. Sono elegante. Del livello mio, Pino. Esatto, è l'errore, il mio aver preso te, che sei un bravissimo regista, autore anche, però purtroppo io gioco con Mauro, ovviamente. Mauro giusto, di, giusto. È di una tridimensionalità estrema. Grazie, amico mio. Grazie a te. Bocca grazie al lupo, merda per lo spettacolo e buon ultima. E salutami grazie a questo punto Ferro e Enrico, Enrico che certo avrò ospite qui il 3 dicembre, verrà ospite qui da me. Ringrazio te, ringrazio non tutti, vale come raccomandazione. No, nei tuoi confronti, ci mancherebbe. No, no, questo ci tengo a sottolinearlo. L'amicizia è una cosa e grazie, un'altra. Grazie, grazie a tutti, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. E allora c'è un'altra fanciulla. Voi fate i bravi, ragazzi. No, siamo io qua. Noi siamo... Sapete quello che succede adesso? Sì. Uno è famoso e tenta l'approccio. No, no, no, no, ormai non giocate schizzo sulla popolarità no, per arrivare a qualcosa no, che non vi daranno mai. Ma adesso... Stiamo parlando tra di noi. Sì, certo, ammiccando. Siete fidanzati? No, no. Vabbè. Chiccio fa Chiccio, io ti chiedo scusa, di dove sei? Io sono di Vicenza. Ecco, guardate, non fate più. Tu li conosci un po' gli actual? Sinceramente, dirlo, no? No, no, dirlo, non li conosco. No, no, non ha finito. Mi piace, l'ha portato pazienza. Sta diventando, no? Sembra il Trio Medusa, amici del Trio Medusa che no, saluto, che sono fortissimi. Sì, a quel punto dove sta sempre con me. Sei vicino. No, vabbè, adesso li conoscerai perché in effetti andrai a vedere gli actual e vedrai che sono molto divertenti, davvero. Bene, a prescindere dalla localizzazione romana, eccetera, sono sdoganati anche oltre confini regionali. Te fai la, tu fai l'attrice? Allora sì, io sono figlia di un cabarettista. Chi e è? Quindi... Che lo amo sicuramente. Beh, i cabarettisti sono da è della mia zona. E fa niente, vuol dire? Pecoraro Antonio è Antonio stato un cabarettista. Antonio Pecoraro, pensa, era il preside della scuola mia al Kennedy. 40 anni di cabaret. Beh, ma cabaret è l'arte sopraffina della sì, comicità. Vero. Ma secondo scherzi. Me sì. Ma io sono cresciuta col cabaret e poi... Ah, per cui non hai detto papà è un cazzaro, no? Tu eri no, contenta. No, io ero molto contenta, oh. Sono tuttora molto contenta. E però fai altro o fai il comico? Fai la comica anche tu. Faccio la comica e faccio anche teatro. Certo. E quindi e sei, adesso gli è partito il pezzo. Faccio anche teatro. D'Italia Nord. Vero, e Italia sei. Del Nord a Cipic. E chissà, ni altri. Teatro e... Sei giovane, quanti anni hai? Ho 26 anni. Va bene. 26 bene, anni, poi mi sono affinata attraverso un'accademia di doppiaggio. Bene, chi era l'insegnante? Rodolfo Bianchi ah, e beh. Massimo Giuliani. Eh certo, Rodolfo che copia la mia voce, va bene. Siamo sempre su questo, io che copio lui. Cosa hai portato? Io ho portato il monologo della, un monologo della Regina Olimpiade di Alexander. Alexander, in Alexander film, di Oliver Stone. Oliver Stone, sì, sì, sì. Un film un po' sfortunato, ma neanche bello. Chi se ne frega, però chi il monologo se ne frega. Sì. Ripeti, a me nome... piaceva e l'ho preso. Ma io ho doppiato per sapere. Allora, nome e cognome e il titolo, vai. Gilda Pegoraro, Alexander. Fidati di chi ti dà amore, la vita è appena cominciata, figlio. La sua pelle è acqua, la sua lingua è fuoco. È tuo amico, prendilo. Se esiti, ti colpirà. Ricorda bene, mai esitare. Sono come le persone. Puoi amarli per anni, nutrirli, curarli. E tuttavia possono rivoltarsi contro. Coraggio. Lui mi considera una barbara. Filippo si fa beffe di Dioniso tutte le sere. Il mio piccolo Achille. Il mio tesoro. Bene, bene, resta con noi, dobbiamo andare in pubblicità, resta, almeno un commento ci sarà. Resto, almeno dobbiamo andare in pubblicità adesso, no? Non sbaglio, è 15, abbiamo anche rubato un minuto. A tra poco, Voice Anatomy e gli actual. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, grazie per tutti i messaggi che state mandando. Gilda, magnifica ascoltarla, un'altra, questa ragazza fa teatro, si sente. Dice Francesco, ottima la Pecoraro, qui mi fa ridere. La Pecoraro, con la C. Qualche anticipazione del doppiaggio, del Gran Premio, anticipazione di Mario Lidò sempre, ci sono tantissimi ospiti. Pino Tranquillo, la tua voce unica, va bene. Voce meravigliosa il ragazzo siciliano, invece di prima troppo tragica, troppo bambina, troppo scolastica la ragazza che ha recitato Cenerentola. Insomma, Lorenzo Di Berio, fratello di Alessandro? Sai che non lo so, no, non credo. No, eh. La sorella ah, che siamo lì. Ah, certo, a parlare di te, sì, no. Poi non è Tiberi tu. Tiberia. Tiberia, sì. Capito? No, lui dice Di Berio, no, Alessandro Di Berio è figlio del grande Piero Di Berio, che non c'è più purtroppo. Alessandro sì, è giovane ed è bravissimo. Comunque, bene, dai, saluta, un abbraccio a papà, sicuramente. Un abbraccissimo e un bacissimo. Da dei colleghi che vivono per far sorridere gli altri, ed sì. È un lavoro importantissimo. È vero. Gilda, grazie mille. Buon ritorno, ti faremo sicuramente sapere nel bene e nel male, perché io odio certo. La gente che fa lasci una foto, faremo sapere. Sì. E poi chi se ne frega, non è così. Grazie a voi per l'opportunità. Ok, grazie. Gilda, vattene grazie. Prima che sti due cominciano l'attacco. Vabbè, frontale. Il contatto Facebook. Lasciaci Facebook, almeno Facebook. Grazie mille. Grazie mille. Non parliamo neanche il contatto niente, Facebook. Qualcosa. Mamma mia. Io adesso voglio capire mente, quanto mi valgono gli altri sul nostro sito Facebook di Voice Anatomy. Vediamo quanti like mi portano. Ma te rendi conto che ti chiedi i like? Io ho 58 anni. Una volta si chiedevano i soldi. I like, capito? Che voi non sapete, ma è entrato uno degli Hobbit, cioè Gandalf il nero. Voi fate, voi lavorate sempre fra voi, avete un gruppo, c'è cioè una produzione sì, vostra. Sì, ci teniamo su quello. Sì, raccontatemi un attimo del, no, di voi, della vostra sì. produzione. Diciamo che è importante. Che le capocce, nel senso, parte tutto da noi, no? Le pazzie. La sceneggiatura, la drammaturgia delle cose che scrivete. Imparavo a dire cose come stanno. Come stanno. Però sotto a questa punta dell'iceberg non siamo tutta... capaci a tenere una macchina da presa in mano, tutta... quindi logicamente c'è una squadra tecnica esatto, importante, sì, assolutamente, sono riprese molto belle. Sì, sì, a quello ci teniamo assolutamente, perché vogliamo un po' far vedere un qualcosa di diverso, no? Sul web molti fanno i video, molti, cioè, è ormai saturo, però ecco, chi fa video a livello appunto professionale, cinematografico, sono pochi, a quello ci teniamo molto. E anche perché poi comunque ti dà la qualità paga, una, poi appunto, l'idea è giusta, però accompagnata anche da magari un prodotto di discreta qualità, comunque un qualcosa in più sicuramente. Sì. Io non sono d'accordo a diventare cinema, un po' i nostri amici Jackal, infatti... sono straordinari, sì, sì, sì. Bravi, li apprezzo, li applaudo. Forse il passaggio cinema per certi anche non viene, è come se io sono bravissimo in televisione a fare i quiz, assolutamente all'improvviso è totalmente un altro... faccio un film sui quiz, no, un'altra cosa, un altro meccanismo, noi neanche un altro ci pensiamo. Pubblico anche, quindi sì, se venisse uno dice c'ho 3 milioni di follower, se faccio un film c'ho 3 milioni di incarti, non è così. Anzi, a volte è proprio così. L'opposto. E noi questo non ci pensiamo proprio adesso perché appunto cerchiamo di prendere tutto, diciamo, sul web in questo momento. Poi magari se abbiamo la storia giusta da raccontare, o magari in un contesto particolare ti diverti, ma adesso non ci pensiamo. Comunque auguro ogni bene ai Jackal con questo addio fottutissimi Musiverdi, sono persone straordinarie, sono dei bravissimi professionisti, cui meritano tutta l'attenzione. Questa domenica magari andate a farvi due risate, visto Maio. Più diamo soldi al cinema italiano, più c'è possibilità che anche gli actor facciano un film, e per cui forse frenate andate a vedere magari Bergman oggi, Spider-Man domani. Amico mio, tu vai su internet? Sì, qualche volta. Dovete vedere, ecco, qui manca la televisione, perché è un signore di 71-72 anni, invece in realtà ce n'hai 25. Sono più giovane di quello che sembra. Sono più giovane. Sei più giovane, no? Questa sono barba, questa ti dà questi... la sto facendo crescere da due anni. Vabbè. Sono Luca Iraghi, ho 25 anni, vengo da Varazze in provincia di Savona. Capito? Vedo? Dove sta Savona? Sì, lascia stare, non glielo chiede che mi dicono Valle d'Aosta. Infatti. Il principe di Savona. Esatto. E abito a Roma da un annetto, proprio perché voglio... È Roma Nord o Roma Sud? Roma Nord. Vicino all'Olimpico. Dai, infatti ieri sera è stato bello, passavano tutti. Ma chi ha fatto di poi questo? È stato bello, ma perché da Savona tu mi parli di Olimpico e di ieri sera è stato bello? No, è stato bello, la gente che passava erano felici. Ah, belli i colori. Non tutti. Se tu vai a analizzare i passaggi, state dei fiumi. Sì. In piena di gioia, anche immotivata, se vuoi. E invece un'altra parte dei ruscelli più tristi, i ruscellini più tristi. No, parlando, sono il conduttore del programma. Allora, quando voi mi darete una parte nelle vostre cazzate, quello io non male, è che dico, dico tre righe in più, dirò le cose che mi dite di dire. Sto parlando con un ospite, per favore. Ecco. E niente, quindi... No, niente lo dico io. Allora, cosa hai portato? Ho portato il secondo monologo del film Magnolia. Certo, sì. Fatto da Tom Cruise. Sì, e Robertino Chevalier, sì. Esattamente. E faccio una piccola premessa, nel senso che lui nel film, questo personaggio, è uno di quei santoni americani. Sì, che... ma non fa niente questo. No, era per dire che alle signore che non si offendano troppo, perché carino. Non sei tu che dici queste cose. Esatto, è il bello della recitazione, cioè si può essere qualcuno che non si è veramente... A chi lo dici? Ci campiamo tutti. Ecco, appunto, è per quello. E quindi va bene. Questo è quanto. Allora, per te, Voice Anatomy finisce qui. Beh, grazie, arrivederci, è stato bello. Ripeti nome e cognome e il titolo del brano, vai. Luca Iraghi, secondo monologo tratto dal film Magnolia. Vai. Fine pausa pranzo, bentornati. Allora, vi sono piaciuti i nachos? Sì, ma voi non siete qui per pensare al cibo, no. Voi siete qui per un solo motivo, perché io vi illumini. Vi aiuti a innalzarvi, vi porti per mano e vi conduca verso un futuro non più così sconosciuto, perciò restatemi accanto. Come fingere di essere gentili e premurosi. Dunque questo è un capitolo molto importante, come vedrete. Ma arriviamo al concetto fondamentale, partiamo da lì, partiamo dal punto chiave della faccenda. Gli uomini sono merda. Che c'è? Gli uomini sono merda. Non è questo che dicono? Sì, è questo che pensano, perché noi facciamo cose orribili, cose terrificanti, terrificanti, esecrabili, davvero, cose che nessuna donna potrebbe mai fare. Le donne non mentono, le donne non tradiscono, le donne non ci manipolano, per carità. Ora ci siete, vero? Capite cosa fa la società ai nostri cervelli? Oh, poveri bambini, wow, la donna! Ci insegnano a chiedere perdono. Mi dispiace tanto, baby, scusami, ti prego! Ma di cosa? Di cosa, eh? Abbiamo bisogno delle loro passerine, del loro amore? Mamma non mi lasciava giocare a calcio e papà, beh, lui mi picchiava, per questo sono così, per questo faccio quello che faccio. Che mega cazzate! Eccolo lì, bravo, bravo, sei stato bravo, dai. Grazie. Non è male, è un monologo difficile, noi facciamo anche il provino per quel personaggio, ecco, giustamente ridato a Roberto Chevalier, perché lui è Tom Cruise, non c'è poco da fare. Assolutamente. Vedo un attimo l'orario, sì, ci siamo. Va bene. Grazie, amico mio. Grazie davvero. A voi. Tu vivrai sempre lì vicino all'Olimpico? Non lo so, per ora sì, per ora. Non sarà sempre per così ora. Triste. sarà triste la domenica sì e la domenica no, tocca di quale. Va bene, grazie mille Bocca ancora. Al lupo, davvero, buon di proseguimento, cuore. Ciao. Complimenti davvero. No, abbiamo tempo e dopo, nel blocco dopo vediamo le ultime due, no? Abbiamo altri due, uno, due, altri due. Va bene, adesso che stiamo facendo? Rimanete con me fino all'ultimo, poi siamo c'è qua, il tutorial di Donatella Pandimiglio sul canto, che succederà? Della Ma adesso vita? Cerchiamo un po' di espanderci anche dal territorio romano-laziale, quindi faremo un video a Milano, che sarà i romani a Milano, quindi un po' sullo stile di... Totò. Se abbiamo Milano. Un po' tipo Totò e Peppino. E se Trieste. E poi faremo i romani al sud, quindi... Ah, per cui fare... Sì, cerchiamo un po' di... Un po' sulla falsa riga di benvenuti al nord e benvenuti al sud... E poi sì, adesso in questo periodo è il periodo natalizio, quindi ci saranno tutti i video di Natale. Ragazzi, io vi dico solo una cosa: volete fare veramente successo a Natale? Vengo io, per un motivo semplice, perché avere un pino dentro uno scherzo a Natale, ragazzi, è il massimo della vita. Se volete dei like in più, è giusto, portate qualcuno, giusto, non dei professionisti, vero, perché non pensate. Non ci avevo pensato. Ci serve un pino, santo Dio. Va bene, a tra pochissimo Voice Anatomy, un altro blocco insieme ai nostri carissimi amici Actual e altri due talentuosi amici che tenteranno la scalata per entrare nel mondo del doppiaggio. A tra poco! Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, al mio fianco Lorenzo e Leonardo, gli Actual, l'unica cosa inglese. Bellissimo questo messaggio, ecco, questa è una critica. Oh Pino, bada che a forza del cavallate ti sei qualificato per i mondiali dei ippica. Bravo, bravo, è giusto, hai ragione, ogni tanto perdo il controllo, giusto, la prendo e la faccio mia questa critica. Bravo al Savonese, anche il timbro simile a quello di Chevalier. Chevalier è più gettonato, grazie Mauro. Allora, amico mio, ecco di qua, a te. Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt De Luise, vengo da Bologna. Matt, c'è un telefonino che viene all'interno. Attenzione, vengo da Bologna, però sono napoletano e ho iniziato Com'è in realtà... Com'è il tuo nome e cognome, perdonami? Allora, Matt, mi chiamano Matt De Luise, però Mattia. De Luise, cognome sempre quello. Ok, Mattia De Luise, okay, bello come nome, Comunque, allora, io sono napoletano, abito a Bologna da 7 anni. Bellissima città. E ho iniziato in realtà come cantante e poi ho avuto un po' di esperienza amatoriale in musical. Quest'anno ho iniziato con un corso di doppiaggio con Roberto Chevalier e Patrizia Mottola, mm-hmm. e quindi è una passione qua. Però che avevo già da piccolo. Vabbè, insomma, fai comunque teatro. Sì, canti, sì. Come mentre... i nostri Actual che cantano. Sì, sotto la doccia. Te la ricordi bella, quella ricca, la moglie. Roma. Basta! bene, allora fammi una nota, una cosa. Che musica hai fatto? Che musica allora, no, tutti amatoriali. Io certo, sono stato in cantavi veramente. Cioè, sì, cantavo. Magari in playback. No. Ho fatto il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Ed ero il fantasma. Certo, non te si vedeva. No, esatto, praticamente. Io canto da quando avevo 10 anni, una nota. I keep on falling in and out of love. Ecco, hey, una cosa così, bravo, bravo. Bravo. Grazie, grazie. Dai, che nome e cognome è quello che porti. Allora, e poi state. Non ho portato alcun film famoso, è tratto da una serie TV, quindi molto famosa, però X-Files. Mm-hmm. Quindi Matt DeLuise, 7° episodio della 17. No, pure, 17, vabbè, non importa. Non importa. Ok, X-Files. Il tempo è fatto di momenti. Momenti che scorrendo velocemente definiscono il sentiero di una vita. E lo conducono inesorabilmente verso la sua fine. Quante volte ci soffermiamo ad esaminare quel sentiero, a capire le ragioni per cui tutte le cose accadono, a considerare se il sentiero intrapreso nella vita sia una nostra creazione, oppure semplicemente qualcosa in cui vaghiamo ad occhi chiusi. Ma se potessimo fermare il tempo, per valutare ogni momento prezioso prima che passi, e riuscissimo a vedere le altre infinite possibilità di percorso che si sono presentate nella nostra vita, sceglieremmo un altro sentiero? Ok. Ecco. Era una riflessione che comunque era interessante. La verità è là fuori. Esatto. Va bene. Ti sei alleggerito ancora di più di fronte al microfono. Mi sono alleggerito? Sì. Ah, ok. Ero più teso prima. No, ti sei alleggerito. Dovresti invece cercare quella voce un po' meno di testa certe okay. volte. Non hai un vocione tu, non hai un basso, eccetera. Ma una voce più tranquilla, più tua, più okay. meno ricercata in questa maniera. Ok. Eh? Okay, forse anche con le cuffie che senti la tua non voce sono, che ti esatto, non sono proprio testa. Ma va bene okay. Va bene amico mio, grazie, grazie mille, bocca a tutti al lupo voi davvero per la tua carriera. L'amatoriale è la cosa più bella del mondo, eh? Sì assolutamente, tutti dovrebbero fare teatro amatoriale. Assolutamente. Va bene, grazie, buon proseguimento. Complimenti. Grazie, al lupo. Grazie, ciao. E ci alterniamo con l'altro nostro ospite, l'ultimo di questo contest di oggi. Un po' tutta Roma Nord, tutta Italia del Nord, scusami. Estrema Roma Nord. Estrema, oltre i confini, eccolo qui. Allora, ciao a tutti. Ciao, come sono ti chiami? Sono Daniele, Di Matteo. Di Matteo. Ho 26 anni, sono di Roma. Di Roma, a Roma. Roma Nord o Roma Sud? Roma Portuense. Ah, pure lui sta più o meno in zona mia, zona centro-est. Però ha la camicia, quindi... Sì, c'è un'idea di Roma Nord, c'è una voglia di accumulare. C'è una voglia di Roma Nord. Sta sulla famiglia quasi. La voglia di sushi. E se riesci a farlo bene con loro pure di fronte, hai vinto, amico mio. Hai vinto. Già, hai vinto. Già qualcosa. Tu che cosa fai? Fai l'attore? Sono ovviamente. Attore e doppiatore. Bene, già hai avuto esperienze sì, in già sala? Già lavoro in sala. Che bello, con chi lavori periodicamente? Un po' con tutti. Tutti. Va bene, quella è la cosa tutti, importante. Sì. E allora cosa ci hai portato? Vi porto il primo monologo di Hitch, Lui sì che capisce le donne, di Will Smith. Will Smith, per cui l'amico Sandro Acerbo. Sì. Quando vuoi. C'è pure una musica, penso, non so se la... Pagando si riesce ad avere tutto, ma questo è un periodo storico che serve tutto. Ci abbiamo la musica, grande tecnico, amico mio? Ecco, non questa... Sam Cooke, Wonderful World. What a wonderful... Yeah! Vai! Daniele Di Matteo, Hitch, Lui sì che capisce le donne. Regole fondamentali. Nessuna donna si sveglia al mattino dicendo «Dio! Spero tanto di non essere rapita dal principe azzurro oggi». Ma ecco, potrebbe dire «Ah, è un gran brutto momento per me». Oppure qualcosa come «Ho solo bisogno di spazio». O la battuta che preferisco. Sono tutta presa dalla mia carriera per ora. Voi ci credete? E neanche lei. E sapete perché? Perché vi sta dicendo una bugia. Ecco perché. Ci siamo capiti? Sta mentendo. Regole fondamentali. Non importa cosa, non importa quando, non importa chi. Ogni uomo ha l'occasione di fare il principe azzurro e rapire una donna. Gli serve solo il cavallo giusto. Caro Roberto Chevalier, occhio che qui c'è gente che cresce nella tua ombra. Non è la tua ombra, questa è la tua vocalità, assomiglia molto a quella di Roberto sì, da giovane. Praticamente tutti. Sì, sala 20 sembra Tom Cruise giovane. Per cui non potrei rubare mai niente a lui. Assolutamente. Perché ormai lui è grandino, per cui non c'è problema. Però questa è la vocalità che ricorda. Beh, è bello che ricordare uno dei grandi, fa sempre piacere, dai, in qualche modo. Allora, in bocca al lupo, davvero, di cuore, grazie buon lavoro. Perché è stato lavori. Un piacere essere qui. Speriamo di incontrarci in sala, anche se ormai si fanno tutte in colonna separata, per cui non ci si incontra quasi mai. Va bene, in grazie bocca al lupo, Pino, magari di rivederti qui nelle semifinali, vediamo siamo un po' qui. Che succederà. Bocca al lupo, davvero, buon di lavoro. Cuore. Complimenti. Ciao, grazie. E allora finiamo gli ultimi 3 minuti insieme ai nostri actual. Allora, mi avete promesso che una cosa me la fate fare. Vai. Assolutamente. Io sì. Cerco anche lavoro qui, per cerchiamo persone che possono certo. darmi lavoro. Te paghiamo il like. Esatto. Se mi pagate il like e mi promettete almeno 1000 like sta settimana in più, se dico 1000, però 100. 500, dai. Quante me ne prometti? Poi te lo dico, eh. Quante, dai, quanti un centinaio di like per promettere. Sulla pagina, so. Ma di più, dai. Di più, dai. Tocca doppiarlo quest'altro. Mi state facendo parlare romano anche a me, che non sono di Roma. Non so, assolutamente. Per cui adesso nasce questa avventura nord-sud, il romano al nord e il romano al sud, sulla falsariga di questi bellissimi film di successo francesi. Sì, sì, c'era Giù al Nord, che è stato reiterati da noi e anche rifatti molto bene da Bisio e compagnia bella. Siani. E poi? E poi cantate, no? No, no, no, quello, no, quello ancora no. Però, però potremmo fare, mai, potremmo fare anche mai. Una prova di doppiaggio. Hey, no, Jack. No, no, no. Doppiaggese. Io non sei. No, vabbè, no, no. Uno ti fa impostazione della voce, sì, ma vabbè, ma giù, ognuno c'ha il campo suo, dai, santa miseria, come altre facciamo persone. I cazzoni, esatto. Va bene, ma fatelo con la C maiuscola, è divertente. No, assolutamente. Mai prendersi sul serio, credo che sia il segreto della vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grande, non so quando vi fidanzerete, se cambierete, quando diventerete parti di famiglia. Se farete vedere quei video ai vostri figli, dice, papà, devi andare a scuola. Ah, papà, ma che c'è? Ma mezzo che top. E dai, palla finita. Ragazzi, in bocca al lupo. In bocca al lupo davvero a Lorenzo Tiberi e Leonardo Bocci in arte di Actual. Grazie, io mi auguro di incontrare altri come voi. Un bellissimo periodo storico. Ci vediamo presto, grazie. Allora. Assolutamente, dai. Voglio una posa con voi. In bocca al lupo a tutti. Noi andiamo avanti con la nostra amica Donatella Pandimiglio per questo bellissimo tutorial sul canto e ci salutiamo alla fine. Ciao! Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Come promesso, la scorsa settimana Donatella Pandimiglio è qui! Eccomi! Buona domenica! Se vi ricordate, abbiamo aperto con un po' di chiacchiera, sicuramente, ma con la respirazione, che è la base proprio della vita. Ma non è tanto, tutti respiriamo, però dobbiamo imparare a respirare bene per parlare meglio, a più a lungo, con più rilassatezza, la base dello yoga. Le due narici, che non si deve sentire quando si respira, ma quando si espira, quando si inspira yes. eccetera. E poi te li sono fermata sulla terza narice, che è la bocca, cioè respirare naso e bocca insieme, in modo tale si non so. Capirete che io cerco di, scusami se ti interrompo, devi, perché io mi fermo qui. Io voglio cercare di usare metafore per far sì che vi possiate visualizzare. Quindi la voce come terza narice vi deve far capire che la profondità che abbiamo scoperto la scorsa settimana inspirando col naso, aggiungendo la bocca, deve avere quel tipo di profondità. Quindi come fate? Dice, io da solo come faccio a capire? Sempre seduti in pizzo alla sedia. Sempre ancora, in pizzo alla sedia. Non dovete occludere, ma dovete pensare, così come vi ho detto di allargare le narici, che la bocca è larga, si apre profondamente, come se doveste andare a cercare quest'aria nel profondo di voi. Quindi si allarga tutto, automaticamente tutto. Sì. Laringe, sì. Faringe. Io aprirei una piccola parentesi, sì, che è una curiosità, un aneddoto. Mm-hmm. Sui respiri, quando noi cantiamo, mm-hmm, e incidiamo i dischi, sì, ovviamente, non so, esempio, people want eat people. Avete sentito che fra una emissione e l'altra io ho preso un respiro, sì, che è un respiro profondo, ha un suo suono che quasi accompagna una sensualità, nota, insomma, in esatto, qualche modo, però è una respirazione che si sente ma è corretta. Vi racconto questo episodio. Allora, diversi anni fa Barbara Streisand incise uno dei suoi album e finita l'incisione dovevano iniziare i missaggi. Il fonico, sono andati tutti via, certo. Il fonico, credendo di fare una cosa strepitosamente valida, è rimasto tutta la notte a togliere tutti i respiri della, certo, signora Streisand, perché ha detto, così domani quando viene è per pulita il la canzone. È pulito. lo ha licenziato, radiato credo dagli Stati Uniti. Più sta sì. Nella Russia del Nord, esatto. Negli acciai, lo troveranno come, esatto. Come la zanzara dei Jurassic Così. Park, questo. Come Fantozzi col mix sulle mani. Sì, in effetti, come hai fatto notare, cioè, il respiro in quel caso fa parte della canzone. Dell'espressività, quindi guai dire che non si deve sentire. Certo, deve essere adesso come respirazione, come esercizio, non dovete sentire perché così si allarga di più il naso, esatto. Le viscere, il diaframma, entra più aria. Ma anche in quel modo di respirare, te lo faccio risentire, sì. People... è comunque profondo, non è questo, no, certo. No? Ma poi alcuni miei colleghi percorrono la strada che, siccome la respirazione che ci interessa è quella profonda nasale, fanno respirare solo col naso. Ma ti pare che io posso cantare così? People. Anche no, non è carinissimo, diciamo, è un po' brutto. Non è carinissimo. I did it my way. Anche perché abbiamo detto è brutto è proprio brutto assai. Non ci ho mai pensato a sta cosa. È bruttissimo. Invece con la bocca è più bello, e poi non si deve sentire sempre, come chi suona il violino, cioè tu ti senti, che Jarrett in concerto a Colonia che suona il pianoforte, esatto. Senti, lo senti perché li sta godendo, fa parte della partitura, insomma. Esattamente, allora, e poi sì. non ci dimentichiamo che è la presa diretta del nostro carburante, perché per cantare, soprattutto per cantare, ne serve tantissima di aria, certo. E quindi, altro piccolo segreto, quando si deve cantare bisogna imparare a prenderne tanta e imparare a perderne pochissima. Esatto. Ma questo anche quando parliamo, udite, sì. Perché altrimenti le vostre corde vocali si stancano se buttate aria in mezzo alle corde. Quindi se io parlo mettendo aria in mezzo alle corde, svuoto immediatamente i polmoni, quindi vado immediatamente però, in compressione. Si apre il telefonetto, sì, certo. Telefonetto notturno. Ma quella è diversa. Dopo mezzanotte, se mi parli con queste corde, quello è così. Mi vuoi venire a trovare? Dammi l'indirizzo. È una cosa diversa. Ma noi non stiamo cercando di insegnare come si rimorchiano le persone per telefono. Stiamo facendo dei tutorial sul canto. E tu mi fai la sensuale. Ma vedi con la voce quante cose si possono fare. A me fare, lo dici, c'ho campo e c'è campo. Eccoci qua. E allora, torniamo al nostro respiro. Esatto. Al respiro, quindi, avevamo detto anche con la bocca. Allora, lo vuoi fare tu questo primo esperimento? Dai, però voglio poi sentire. Ispirare? Vai. Respirare naso e bocca senza far sentire. Yes. È difficile. Cioè, voi non mi vedete, ma sto facendo difficoltà. Ti devi concentrare. Sì. Sembra un buco radiofonico. Ma che stanno a fare questi? Sto silenzio, cercando di respirare. Però è così. Senti come si apre tutto. Tanto. È vero, pure pericoloso. Perché ti può girare la testa, no, quello è sicuro, va in iperventilazione del cervello, mi sembra come... Perché si iperossigena il sangue, perché certo. Portiamo dentro tanto ossigeno, se non siamo allenati questo può accadere, infatti durante gli esercizi... Esatto, per rafforzare questo quando doppiamo i film d'azione, infatti sono divisi in 20-30 secondi gli anelli che doppiamo, perché è impossibile, se tu pensi diventa. Un combattimento di 2-3 minuti o 4 minuti diventa... Svieni, come quando doppiavo i porno 37 anni fa. Sì, ma sì, bisogna fare... Si veniva. E se è così, perché loro non gli fregava niente che tu lì andavi avanti. Lo so. Voi provate a respirare a vuoto a casa, fare come ci capita a noi farci una anelli o qualsiasi altro certo, film. Provate certo. A farlo per 20 secondi. Dopo sembra che sei ubriaco, ti gira la testa, esatto, e rischi di cadere a terra. Infatti questo lo diciamo ai nostri ascoltatori. Quando fate questi esercizi, se li fate bene, vi potrebbe arrivare questo senso euforico che è dato però dall'ossigeno. Ragazzi, però se risparmiano un sacco di soldi su certi elementi chimici. Esatto. Cioè, vedete che si può essere euforici solo respirando. Hai capito? Si risparmia. È vero, ti gira la testa. Dice, che te sei fatto? Nemmeno il vino serve più, capisci? Esatto. Basta respirare. E vai. E per questo vero. Iniziamo da seduti, perché sennò possiamo cadere. Vedete, questa cosa mi piace molto, perché a parte che è un passaggio radiofonico che vale da un punto di vista tutorial, ma vale anche dal punto di vista anche della chiacchiera e del fare compagnia alle persone, che sono tutti si metteranno seduti in pizzo alla sedia o faranno questo, però qualcuno lo farà. Magari qualche professionista, anche perché è una trasmissione ascoltata ormai da parecchie decine di miliardi, ormai abbiamo superato pure i 200.000, per cui le persone anche attente, il nostro talent, concorso, come lo vogliamo chiamare, sta funzionando tantissimo, insomma abbiamo tanti giovani che ci sentono, sì, di tutte le età, anche perché Radio 24 poi insomma non è Pino Insegno, Radio 24 è tutto, sono tante persone meravigliose gestite in maniera fantastica. Però io voglio sentire un pezzo tuo prima di continuare, abbiamo quasi finito pure questo perché chiacchieriamo tanto, io chiacchiero tanto pure. Voglio sentire, tu hai lavorato tanto con Nicola Piovani. Sì, per più di 20 anni, continuiamo ancora a lavorare. Continuate a lavorare insieme. Mm-hmm. E tu hai fatto una versione della canzone della Vita è Bella, se non sbaglio. Allora, questo brano che si chiama Quanto tu amato. Quanto tu amato è quello di Benigni, che cantava Benigni. Ve lo dico in 20 secondi. Nel 1996, stavamo facendo canti di scena già da diversi anni, e Nicola mi propose di fare questo pezzo che era stato scritto per Benigni, in tutto Benigni. Ed era un bis che faceva lui, era passato completamente inosservato. Io l'avevo sentito una volta in viaggio, in tournée con Nicola in macchina, me l'aveva fatto sentire e mi disse: senti, nella prossima versione ti piacerebbe farlo, nella prossima versione di canti di scena? Dice: ascoltatelo e provalo. Andai da lui, lo provammo e mi ha detto: non toccare nulla, lo faremo. L'ho fatto per 6 anni in teatro, è diventato talmente amato attraverso questa versione mia teatrale, tanto che Roberto mi prese in braccio quando è venuto, ma adesso ho capito come si canta sta canzone, mi prese in lui non è cantante, e lui poi l'ha rincisa, invece cantata, lo dice sempre nelle sue interviste, basandosi sulla mia versione, che udite udite ha più di 33.000 click su YouTube. Eccola. Se tu m'avessi chiesto come stai, se tu m'avessi chiesto, mai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare sei tu. Mi sfiori e ridi no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio. Tu lo capisci da te, quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Le parole non contano, contano la musica, ma conta soprattutto l'interpretazione. Donatella, domenica torni. Sì, okay. Eccomi, promesso. Vedi un po', parcheggio ce l'hai, dai. Noi invece torniamo domenica prossima, come sempre, grazie per volerci così bene. Voice Anatomy, Radio 24.